Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'eclettica di metà settimana, quella che sta per iniziare. Un benvenuto a tutti voi da parte di Giulio Caperdoni, anche quest'oggi presente, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20, sulle frequenze di Rock FM. Ricordo l'indirizzo di mail, giulio@radiorockfm.com, da utilizzare anche per l'iscrizione alla lista nera di Eclettica, e myspace.com/eclettica. Per fare una rivoluzione ci vogliono due cose: qualcuno o qualcosa contro cui rivoltarsi e qualcuno che si presenti e faccia la rivoluzione. Di solito ci si veste in modo molto informale e le parti in causa sono piuttosto flessibili nello stabilire il luogo e l'ora. Ma se nessuno delle due parti si fa viva, l'impresa va a finire male. Nella rivoluzione cinese del 1650 nessuna delle due parti si fece viva e perdettero l'anticipo per la sala. Vengono chiamati oppressori le persone o il partito contro cui ci si rivolta e sono facilmente riconoscibili perché, apparentemente, sono gli unici che si divertono. Gli oppressori generalmente portano completi fumo di Londra, posseggono terreni e tengono la radio al massimo di notte, senza che gli altri osino protestare. Il loro compito è di mantenere lo status quo, una condizione dove tutto rimane lo stesso, anche se in effetti sono disposti a dare una mano di bianco ogni due anni. Quando gli oppressori diventano troppo severi, abbiamo quello che si chiama uno stato di polizia, dove è vietato ogni dissenso, come il ridacchiare, il portare una cravatta a farfalla o soprannominare il sindaco Ciccio. Le libertà civili sono molto ridotte in uno stato di polizia e non esiste la libertà di parola, anche se è permesso doppiare una canzone in playback. I gruppi che si rivoltano sono chiamati oppressi e generalmente si assembrano brontolando e accusando emicranie. Si deve osservare che non si verifica mai che gli oppressori si rivoltino o cerchino di diventare gli oppressi, perché ciò comporterebbe un cambio di biancheria. Questo era l'incipit di Breve ma utile guida alla disubbidienza, da citarsi addosso, di Woody Allen. Shake on it. You've never used them before. Rest, Neil. The answers are coming. Tanto in tanto ritorna l'idioma francese all'interno delle scelte di Eclettica. Questa è l'occasione data da Caldeira, album dal titolo in portoghese Calderone, viene utilizzata dai vulcanologi per descrivere l'implosione sotterranea in un vulcano, ed è così che Valéry Loliot ha deciso di intitolare il suo album d'esordio solista, una carriera di qualche anno all'interno di gruppi francesi, ed ora esce con questo album dal quale ci siamo ascoltati Mon Homme Blessé. Ed in apertura invece l'opera solista di Omar Rodriguez Lopez, che alterna prove soliste a quelle assieme ai Mars Volta. Si ritorna ad atmosfere anni 80, perché andiamo a riascoltare, dopo qualche tempo di assenza dalle playlist di Eclettica, i norvegesi 120 Days. Qualche esempio di rivoluzioni famose. La rivoluzione francese, nella quale i contadini presero il potere con la forza e subito cambiarono le serrature del palazzo per impedire ai nobili di rientrare. Poi fecero una grande festa e mangiarono strippapelle. Quando i nobili ripresero finalmente il palazzo, dovettero fare una pulizia generale e trovarono molte macchie e bruciature di sigarette. La rivoluzione russa, che covava da anni e improvvisamente scoppiò quando la gleba finalmente capì che lo zar e lo zar erano la stessa persona. Si deve notare che una volta compiuta la rivoluzione, gli oppressi spesso prendono le redini e cominciano a comportarsi come gli oppressori. Naturalmente da quel momento diventano irraggiungibili al telefono e per quel che riguarda gli spiccioli prestati durante la rivoluzione, è meglio non chiederne la restituzione. Forme di disobbedienza civile. Sciopero della fame. Gli oppressi stanno senza mangiare finché non siano soddisfatte le loro richieste. Dei politici insidiosi lanceranno biscotti a portata di mano o forse del parmigiano, ma si deve resistere. Se il partito al potere riesce a far mangiare lo scioperante, di solito riesce a soffocare l'insurrezione senza troppe difficoltà. Se riesce non solo a farlo mangiare, ma anche a fargli pagare il conto, ha vinto. In Pakistan, uno sciopero della fame è fallito quando il governo ha offerto eccezionali scaloppine di vitello cordon bleu, che le masse hanno trovato troppo buone per poterle rifiutare. Ma questi piatti da buon gustaio sono rari. Il problema dello sciopero della fame è che dopo qualche giorno si diventa piuttosto affamati, specialmente se circolano delle macchine con altoparlanti che trasmettono che pollo delizioso! Un po' di piselli? Una forma modificata dello sciopero della fame, per quelli che non hanno convinzioni politiche troppo radicali, potrebbe essere la rinuncia ai sottaceti. Questo piccolo gesto, se usato nel momento giusto, può avere un'enorme influenza sul governo. Questo era ancora breve ma utile guida alla disubbidienza, da citarsi addosso, di Woody Allen. Pick it up. what to do. Uh-oh. I've just lost $100 betting it all against love. Uh-oh. Without luck, what do we have? Without luck. Io avrei potuto iniziare questa presentazione con: vi ricordate dei The Blow? Se non fosse che proprio questa settimana vi ho fatto riascoltare The Blow con Parentheses. E poi sono sicuro che molti fra voi comunque avrebbero risposto di sì. Si sarebbero ricordati dei The Blow, la band di Portland, Oregon, che tanto spazio ha trovato in Eclettica qua su Rock FM nei mesi scorsi. Uno dei due componenti dei The Blow si chiama Jonah Bechtold e ha anche un suo progetto solista, il cui nome è Yocht. Noi ce lo siamo appena ascoltati, questo progetto solista, con il brano dal titolo Sea and Penny nella versione Architecture in Helsinki Remix. Ed ora, invece, su Rock FM è la volta di Xavier Rudd. People saving whales and giving your thanks to our seas. My respect to the ones in the forest standing up for our old trees. Them giving food to the hungry again, hope to the needy again, life to a baby again. Careful free, cause there is freedom around us. We have everything we need, and I will care for you, cause you care for me. And we all have opinions, some of them get through, but there's better people with more good to do. Good to do. And what I have could be a message, some words from my heart. My respect to the ones making changes for other lives. They'll give their own, like giving food to the hungry again, hope to the needy again, life to a baby, giving care for free, cause there is freedom around us. We have everything we need, and I will care for you, cause you care for me. Opinions. Some of them get through, but there's better people with more good to do. Good to do. Well, our world, it keeps spinning round and round it goes. Human nature keeps spreading its disease, and our children keep growing up with what they know from what we teach. Of the time we have and the lives that our children will lead, as they can only keep growing up with what they know from what we teach and what they see. Like giving food to the hungry, giving hope to the needy, giving life to a baby, giving care for free, cause there is freedom around us. We have everything we need, and I will care for you, cause you care. Some of them get through, but there's better people with more good to do, good to do. Oh, good to do. Ooh. with you. No, you're not. No? Let me tell you what I believe. I believe Morpheus means more to me than he does to you. I believe if you are really serious about saving him, you are going to need my help. And since I am the ranking officer on this ship, if you don't like it, I believe you can go to hell. Because you aren't going anywhere else.